Noi abbiamo pensato che fosse giusto, arrivati alla metà del mandato, in realtà superata da poco la metà del mandato, dare un feedback alle persone dell'associazione Coalizione Civica, a un po' di nostri elettori che immagino saranno interessati all'appuntamento e anche a un po' di compagni di viaggio di altre realtà, per così dire, gemelle o cugine, da realtà della città metropolitana come la Valsamoggia, a altre città della regione che sono in procinto di andare al voto come Modena, a città, diciamo, dell'area del nord-est come Coalizione Civica a Padova, che è stata un'esperienza di un anno successiva alla nostra e che ha avuto, insomma, un rilevante successo e che oggi governa una città importante come Padova. Non un modo di celebrare un'attività consiliare o un'attività di consiglieri di quartiere eletti, ma un modo per provare a mettere a tema soprattutto i limiti di questa attività per capire come possa essere rilanciata in avanti, come si possa immaginare una città anche in vista dell'appuntamento del 2021. Facevi riferimento a una fase difficile, questo è indubbio. Diciamo che viviamo un'aspra stagione, nel senso che il paese è messo come è messo, e se abbiamo preso le mosse da un ragionamento che era legato al fatto che la nostra impressione era che le città non fossero state soltanto teatro della crisi economica, ma che ne fossero anche state vittime, che le politiche d'austerity le avessero rese vittime della crisi. Oggi abbiamo nuovamente l'impressione che le città siano le prime vittime della peggiore politica del governo giallo-verde, a partire dalle iniziative del ministro Salvini. È solo di ieri la notizia della nuova stretta contro i balordi, che ha fatto dire a Salvini che ci saranno provvedimenti di allontanamento dalle città, non solo per chi spaccia o commette reati contro le persone, ma anche per chi commette reati contro il patrimonio, il decoro urbano. Noi abbiamo avuto l'impressione che si trattasse del solito slogan attraverso il quale la Lega macina consenso, che è sostanzialmente il degrado sono gli altri, per altri intendendo tutte le forme di vita diverse da quelle che intesta il ministro degli interni, quanto a nazionalità, colore della pelle, orientamento sessuale o anche semplicemente stile di vita. Ma sono città vittime anche quelle che adesso vivono l'imbarazzo e il disagio della mancata iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Sono vittime della crisi anche le città costrette a fare grandi opere come il passante di mezzo, contro il quale si erano mobilitate le minoranze a livello locale e adesso invece promosso in modo bipartisan dal governo nazionale, da quello regionale e da quello della città. Ci sono tanti aspetti di criticità, ma al tempo stesso ci sono segnali di grande vitalità. Mi pare che il mese di marzo ne sia stato un simbolo importante. Ecco, e visto che citavi appunto le varie città, tornando a Bologna, Zic titolava oggi: Salvini vede Bologna come un esempio di città del decoro, che per quanto riguarda le zone rosse in particolare. Voi nella chiamata, diciamo, a questa giornata di domenica fate un riferimento già nel titolo al clima come problema climatico, ambientale, globale, ma anche il clima della città, che definite imbalsamato, conservativo e senza immaginazione. Quindi, insomma, a che punto siamo anche nella città proprio di Bologna? Ma dunque, nella città di Bologna noi abbiamo l'impressione che ci siano alcune battaglie, per così dire, di facciata o simboliche, cui purtroppo non sempre seguono azioni concrete. Che cosa intendo dire? Intendo dire che rispetto ai temi ambientali, rispetto ai temi securitari, per così dire, rispetto al tema della città accogliente dei migranti, se uno ascolta le parole dell'attuale maggioranza di governo, del sindaco, di alcuni consiglieri, sembrerebbe che la città sia, diciamo, esplicitamente di traverso rispetto ad alcune politiche del governo nazionale. Purtroppo capita di riscontrare che nella prassi, nei fatti, non sempre segue a queste affermazioni di principio un giusto coraggio. Tu parlavi giustamente del clima ed effettivamente, se pensiamo alle politiche della mobilità, a noi pare che ad alcune affermazioni di principio, tutte orientate alla scommessa sulla sostenibilità, talvolta seguono delle azioni in controtendenza, dai limiti immensamente tardivi alle macchine inquinanti nel centro storico e altrove, alle scelte sui prati di Caprara, cioè un grande polmone verde in grado di svolgere rispetto anche appunto all'aria un lavoro molto rilevante rispetto appunto alla CO2, alle emissioni e quant'altro, la scelta di procedere nella costruzione del passante di mezzo nonostante un'opposizione sociale molto diffusa a questi temi, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il tema della città accogliente, è stato esplicito da subito una opposizione del sindaco, della giunta, della maggioranza al cosiddetto decreto sicurezza o decreto Salvini, e tuttavia ancora oggi Bologna è tra le città che rifiuta l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, nonostante una prima pronuncia di un tribunale, quello di Firenze, del 18 marzo abbia condannato il comune per il diniego dell'iscrizione anagrafica sulla base di un'interpretazione che Coalizione Civica aveva proposto in un ordine del giorno, prima rinviato in commissione, poi rispetto al quale avevamo chiesto l'anticipo dopo la pronuncia del tribunale di Firenze, e che però la maggioranza ha scelto di non anticipare perché la giunta ritiene che i tempi non siano maturi per procedere all'iscrizione anagrafica, dovendosi battere altre strade. Rispetto al decoro, che era un tema che mettevi in evidenza, siamo alle altalene, nel senso che ci sono da parte di assessori diversi e in momenti diversi dei tentativi di inseguire questo mito del decoro, talvolta convertendo la pulizia, la vivibilità, che sono temi che sono senz'altro cari a tutti, a partire da Coalizione Civica, in guerra alla povertà e ai poveri. Ancora ricordiamo gli sgomberi dei senza fissa dimora, la pulizia dei portici con il trasporto coatto dei cartoni dove alcuni senza casa dormivano, e quindi abbiamo come l'impressione che la città debba decidersi, debba decidere da che parte stare. Quando diciamo da che parte stare, non pensiamo a una forza politica o a un'altra, ma pensiamo a scelte in forte discontinuità rispetto al passato che siano in grado di vivere con maturità le grandi sfide del nostro tempo. L'emergenza climatica, per un verso, la consapevolezza che questa sarà, ci piaccia o meno, una città meticcia, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un po' questo è il tentativo dell'iniziativa di domenica, mettere a fuoco questi temi in alcuni workshop che servono a focalizzare delle proposte per capire come i limiti della nostra azione amministrativa possano essere superati nel biennio che ci separa dalla fine della consigliatura.